In sto quartiere sono il principe, il re Franco il terribile. Dai vestiti nelle borse ai pacchi con pellicole. Ingestibile come un pit senza padrone, come un GT senza limitazione. Disonesta al punto giusto da farti saltare tutto. Queste tipe sembran fighe ma son cessi senza trucco. Poi fanno le sante, danno alle altre delle mignotte. Sono tutte casa e chiesa ma è il tragitto che le fotte. I padri fanno quelli di famiglia, poi si comprano la guazza dalla mia famiglia. Stanno senza cash per un mese, dicono che hanno tante spese, ma stanno finanziando le nostre piccole imprese. Imprenditori di quartiere, 10k sul Mercedes. Tutti i giorni al bar a bere, spostano pacchi senza il corriere. 4G di guida dentro a questa mappa. Sono tornati Franco ed Andrews Wright a tapparvi un po' la bocca. Franco, UBR. Son tornato por la calle, soy el capo. Vingo al limite su un cingolato. Tu torna da dove sei arrivato che arriviamo. Franco shit ed Andrews Wright. Dacci soldi o li prendiamo. Dacci soldi. Dacci soldi o li prendiamo. Dacci soldi o li prendiamo. Dacci soldi o li prendiamo. Dacci soldi o li prendiamo. Franco shit ed Andrews Wright. Dacci soldi o li prendiamo. Vivo a 360 come l'Xbox. 6 split, 3 shot. Zia vado in buca come a golf. Non è una profezia. Se mischio vodka e Maria, il flow mi aumenta l'energia. Sputo fuoco sopra il beatbox. Per i rapper ogni giorno è capodanno. Per me no, ogni giorno a che fare con dei pezzi di fango. In sta roba cerco il gol, ma le porte dove stanno? Forse un giorno riuscirò. Intanto in telerappa un babbo. Franco, UBR. Son tornato por la calle, soy el capo. Vingo al limite su cingolato. Tu torna da dove sei arrivato che arriviamo. Franco shit ed Andrews Wright. Dacci soldi o li prendiamo.